Ciao. Ciao. Ciao. Oggi viene il presidente Giorgio Napoletano a mi portare una medaglietta di onore. A mia. Non mi chiamo. In realtà il nome ce l'ho, però non mi chiamano mai al paese. Nessuno mi ha mai chiamata. Se mi vedevano ero quella là. Oppure oh oh. E se ne parlavano di me. Anche se non credo che ne parlava mai nessuno. Allora diventavo quella, o lei, o illa. Oppure la matta, la scema. O peggio ancora, scarpe strane. Le scarpe sono sempre state strane per loro. Diverse e belle per me. Ne avevo un paio rosse, con delle linee bianche ai lati, fosforescenti. Belle. Mi portavano in giro. Quando potevo ancora scappare. Correre, correre, correre! E mi liberavo. Nel paese. Mamma non ci può ancora credere. E non ci aveva creduto. Anzi, nessuno ci può ancora credere. E nessuno ci aveva creduto. Ma nessuno ci voleva credere. Ecco qui l'album dei giocatori. Accendo la radio. E camminiamo da soli nella notte più scura. Le figurine dei giocatori. Chi succeda? Chi succeda? Chi succeda pure? No, no, chi succeda? Chi succede due volte? E il mio doppione! Ha, mi intoccavi? L'attacca alla sedia. Che succede? E che succede? Spengo la radio. Daniele De Rossi. De Rossi, De Rossi. De Rossi, eccolo qua. Mo ce l'attacco, Ignanzio Abate. E c'era chi? Eccolo qua, c'è vicino a De Rossi. Antonio Di Natale. Chissà, somiglia a Nello. Se c'era Maria, ce lo dicevo a lei. Ma Maria non c'è più. Era l'unica che mi chiamava. Senza Maria io mi sento muta, come una parola non detta. La vedevo ogni pomeriggio che usciva dalla palestra. Quanto è bella Maria, con quelle tute grigie e rossetto rosso. Ah, ci aveva pure le scarpe bianche con la marca. Andava alla palestra perché si voleva sentire bella. Io pure ci volevo andare. Però mamma mi aveva detto che prima mi dovevo finire tutta la carne di mucca e poi mi ci scriveva. E io quella carne di mucca non me la riuscivo a finire mai. Eppure se me la mangiava a forza, poi mi veniva da rovesciare. Maria non ha mai vomitato. Anche ce l'ho chiesto una volta se aveva vomitato. E mi ha detto no, che non vomita mai. Ma perché Maria non si mangiava la carne di mucca? Ma nemmeno quella di gallino, di pecora, nemmeno quella di pesce, niente carne. Era vegetaria, Maria. Il giocatore. Me ne sono liberata. Sono libera, uscita, apparsa, come una Madonna che ride, invece che piangere. Tutta intera, brillante e vera. Mamma non ci può ancora credere. E non ci aveva creduto. Anzi, nessuno ci può ancora credere. E nessuno ci aveva creduto. Ma nessuno, nessuno, nessuno ci voleva credere che io l'avevo visto, il pullman. Io abito al mio paese. Il paese. Ok, poi sono pochi gli abitanti del paese, Pochi e tutto diversi. C'è il panettiere, che lavora tutta la notte, disgraziato. Il dottore più importante, che sta con la dottoressa, che però non va alla dottoressa, scrive libri. E poi c'è il giornalaio, o che da quando lo conosco c'ha sempre la stessa camicia a quadrettini. E poi c'è la chiesa, col prete vecchio e il prete nuovo, che aspetta che quello vecchio muore, così sarà lui il vecchio. E ne arriverà uno più giovane che aspetterà che rimuore quello nuovo già vecchio. È una catena di preti. Ah, poi c'è il sindaco, che da quando lo conosco è sempre lo stesso, uguale uguale, che se tu lo vedi mono è uguale a quando si è fatto sindaco la prima volta. Ride, ride da sempre, si fa rosso rosso in faccia e parla con tutti, tranne con me. Ah, mo ci hanno aperto un centro commerciante nuovo. No, grandissimo, però ci sono pure i sacchetti di pasta pronta, che io ci vado pazza da quando l'ho presa la prima volta, lì. Sì, l'avvocato c'è, serio, sempre di corsa, e lavora fuori. E la scuola pure, tutti insieme, piccoli, medi e grandi. Credici, no? Che ci sono i professori che vengono da tante parti diverse. Tranne una, con mamma Tilda, che è del paese, ma mo è vecchia. Forse pure muore mo. C'è pure un locale che vende la birra. Route 66 si chiama. Che non ho mai capito che significa. Da quando ho cominciato a leggere io non l'ho mai capito. Il proprietario si chiama Nello, ha vissuto 4 anni a Roma. E infatti è tutto romano quando si muove, no? E dici che, a mia me l'ha detto, no? A Roma ci sono le fontane antiche che l'acqua è sempre la stessa. E quindi non si può bere. Io ci vado ogni tanto da Nello, mi dà sempre una porzione di patatine e non me la fa pagare mai. Mai proprio. Ah, mo non ci hanno montato una statua? Nel centro esatto della piazza principale del paese, e dove c'era l'albero secolare prima. La statua rappresenta l'unificazione dell'Italia e il personaggio della statua è Gigarbarte, con la barba e il fucile. Però io non l'ho visto bene ancora da vicino, Forse potrebbe essere un fucile con una spada attaccata. O un fucile spara spade! Dato che a quei tempi, no? Dell'unificazione d'Italia, non c'erano le mitragliette di oggi. Che io l'ho vista una mitraglietta. C'è la Gaetani, il carabiniere, che si mette sempre alla fontanella rossa, no? A inizio paese, e ferma tutte le macchine che passano. Ma poi le conosce sempre a tutte e le fa passare. Io non lo so perché si tiene quella mitraglietta se non la usa mai. Ma una volta, no? Pur per scherzo. Potrebbe sparare alla ruota del sindaco, no? Per scherzo, La fontanella rossa è fatta bene. Forse è antica. E non spreca l'acqua come a Roma, C'ha un pulsante. E se tu vuoi bere, bevi tenendolo premuto. Se ti vuoi lavare le mani, no? Perché ci hai toccato un cane, non puoi tutte e due assieme. Una alla volta e l'altra tiene premuto il pulsante. Che certe volte, no? Gaetano me lo tiene lui il pulsante. E così mi pulisco le scarpe. Oppure bevo. E mentre bevo con l'occhio mi guardo la mitraglietta, tutta nera, luccicante, con la tracolla. Sembra un giocattolo di carnevale. No, io non ce l'ho chiesta a Gaetano, se è vera. Dici che mi fa la multa se la tocco. Ah? Ma vediamo se è ora qua che trasmettono alla radio. No, ancora no. Questo è succo di frutta alla mela verde. Io me lo bevo sempre perché è buono. Al centro commerciante nuovo pur ce l'hanno, però no buono come questo qui, che prende al negozietto piccolo, che è pur bar. Io giro sempre, passeggio, osservo, parlo poco, non spio. Ogni tanto osservo, voglio parlare ma non mi danno retta, ridono. Io parlo e loro ridono, come se dicessi solo battute simpatiche. Ma che c'è da ridere se ci chiede ad un cane se c'ha fame? Fa ridere? A me no. Che tanto quello è il cane, mica ti risponde. Non sa parlare il cane. Ma la signora grassa della merceria, che sta sempre davanti alla porta perché non ci va nessuno da lei, e di questo io sono contenta, ride. Mi indica che ride. E c'ha una risata fastidiosa, oh. Ride sputacchia. Poi io me ne vado, mi giro e ancora ride. Ma comunque è proprio strana, eh? Che poi, per esempio, secondo me, alla piazza ci stava meglio l'albero che la statua. Che su Gigarbardi di notte fa paura. Con sa barba, sa coperta, sa spada fucile, fermo, immobile. Ha fatto scappare tutti gli uccellini. Tutti. Anche quelli gli uccellini ci hanno paura del fucile. O della spada. O della spada fucile. Vediamo mo se lo trasmettono. Ancora no. Se mi si canzuna sa radia. L'album dei giocatori. Che io li conosco. Eppure loro mi conoscono. A me. E comunque al paese c'è tutto, eh. Pur si lamentano che non c'è niente. Eh? Li sento. Nemmeno la ferrovia. Si lamentano. Ma voglio vedere oggi, che arriva lui presidente, se ce l'hanno il coraggio di ci dire che non c'è niente allo presidente Giorgio Napoletano in persona. Dopo che ha parlato con me. Ma si lamentano, sì. Si lamentano, ma non se ne vanno, eh. Non se ne va mai nessuno. Chi se ne va sono quelle che spariscono. E ogni tanto sparisce qualcuno. Sa terra promessa, oh, su Ramazzotto, oh. Ma sempre. Ancora no. Aspettiamo. Intanto pulisco le scarpe. Il paese. Tutto uguale e tutto puzzolente. No, io profumo. C'ho i saponi, lo shampoo, il balsamo. E mi lavo sempre perché non voglio puzzare. E Nello ci parla con me e mi dà pure le patatine. Che io passeggio, vado fino alla Fontanella Rossa. E quando non c'è Gaetano con la mitraglietta, vado dopo la curva, dove si vede la strada nazionale e il paese vicino. E sto. Poi però quando si accendono i lampioni me ne vado a casa, Che dici che qui, la sera, gira brutta gente. Io non l'ho mai vista, però ci sono. Che la sera qui, al paese, non gira mai nessuno. Che ci hanno paura. Che dici che una notte, no? Hanno appicciato la sopracinesca del negozietto piccolo che è pur bar con la benzina. Ha fatto una botta che... dici che il negozietto piccolo non ci ha voluto dare i soldi ai brutti. Che qui, no? Tutti i negozi, se vogliono guadagnare, devono pagare. E se non pagano, la picciano. I brutti. Io una volta l'avevo chiesto a Gaetano se l'aveva visti i brutti. Ma Gaetano mica mi risponde. Ride. Ride e mi dice di tornare a casa. Io non lo so perché ridono tutti quando parlo. Forse pensano che sono scema. Ma io non sono scema. Che lo sanno tutti che mamma mi ha fatto cadere e mi ha fatto sbattere la testa quando ero piccola. Che mica ho pianto quando sono caduta. Pensavano che mi ero morta. No, io non sono scema. Io voglio parlare e loro ridono. Ridono sempre. Ma Nello però ci parla con me e non ride. Non ride mai Nello, è sempre triste. Mi dà le patatine però. Ma non ride mai. Oggi viene il presidente dell'Italia, Giorgio Napoletano II, a mi portare una medaglietta di onore. A mia. Eppure io ci ho fatto un regalo allo presidente Giorgio Napoletano in persona. E se no era brutto, no? E chi lo si parte da Roma per venire fino a qua per mi portare una medaglietta e io non ci faccio niente. E no, dai, super brutto. È scostumazione proprio, no? Ci metto la carta, ci l'incarto. E questo è il mio regalo. Il pane, sì. Il pane. Come che l'ho pagato? Siccome mamma fa la pizza e la vende pure, fa pure il pane, però vende di più la pizza. Solo che la pizza, la carta, si imbraccia, ecco. Al pane no, non si imbraccia la carta, ha detto mamma. E quindi c'è più tu pane. Mo ce lo confeziono. L'ha fatto mamma stamattina, fresco fresco. Anzi no, caldo caldo. È un pensierino, no? Pensierino dalla Calabria, ha detto mamma. Che mamma a me non mi sgrida mai, mi chiede solo se ho fame e se mi fa male la testa. Io dico sì quando ho fame e no che la testa non mi fa male. Papà è morto. Ma dopo una sera che non è tornata a casa, mamma piangeva. La sera dopo nemmeno tornava e mamma subito deciso che era morto. Hanno fatto un funerale, senza bara e senza papà, solo con la targa e la fotografia del matrimonio. Ah, ma mamma però l'hanno tagliata, E hanno messo tutto al cimitero, vicino alla Fontanella Rossa. Certe volte, no? Io vado alla curva della strada nazionale, dove si vede il paese vicino, e aspetto che papà ritorna. Che a papà, se gli dicevo che mi chiamavano scema, lui mi diceva che non mi dovevo arrabbiare e che dovevo dire che non ero scema. E io così faccio, più o meno. Ma tanto ritorna, ne sono sicura. Quando mamma fa la pizza, lui ritorna. Che mamma fa la pizza e la vende pure. Fa pure il pane, però vende di più la pizza. E papà mio invece lavorava allo sfasciascarrozze e per andare al lavoro si vestiva sempre tutto elegante, a giacca, a cravatti, scarpe marroni. E una volta ce l'ho chiesto perché si vestiva tutto elegante e mi ha detto che poi si cambiava al lavoro. C'aveva pure la pistola papà mio. Che te pensi? Chissà se ritorna. La sera quando c'era lui, mamma a tavola parlava. Ma no. Mastica forte e fissa alla televisione. E mi chiede se ho fame e come va la testa. Va bene la testa, ma va bene. Va bene. Riproviamo a sta radio. Silenzio, Shh. Lo stanno dicendo adesso. Carla Libbonati. Carla Libbonati, l'hanno detto proprio bello, scantito. Carla Libbonati, sono io. Ma avete riconosciuta, no? No? Mamma non ci può ancora credere. E non ci aveva creduto. Anzi, nessuno ci può ancora credere. E nessuno ci aveva creduto. Ma nessuno ci voleva credere, oh! Io sono andato subito a dirla al prete vecchio, che però mi ha mandato da quello giovane che mi ha dato 2 euro per il succo di mela. Ma io quei soldi me li sono presi, ma non me li sono spesi. Perché mamma dice che noi i soldi ce l'abbiamo, che non dobbiamo ringraziare a nessuno e che se me li danno li devo rifiutare. Me ne sono presi, sì, però senti che ho pensato che li potevo prendere e li mettevo nel cestino della messa e così ritornavano al prete. Che Gesù dei soldi non sa che farsene, no? Mica ci sono i soldi in cielo. E poi io il pomeriggio l'avevo detto pure a Nello. che però non mi ha dato tanta retta. Stava scaricando le bottiglie dal furgoncino giallo e neanche le patatine aveva fatta ancora. E poi la sera io l'avevo detto pure a mamma, che però mi ha fatto solo sì con la testa e mi ha detto che mi dovevo mangiare la carne di mucca, che ero bianca come una mozzarella e c'avevo poco sangue. Ma certe volte è vero che c'ho poco sangue, però a me la mucca non mi piace. Se c'era Maria, ce lo dicevo a lei, che io con Maria ci parlavo, eppure lei ci parlava con me più di Nello. Maria è stata l'amica mia, l'unica. E lei la carne di mucca non se la mangiava, Mi diceva che gli animali soffrono quando ci fanno la carne, che muoiono gridando, e per questo certe volte la bistecca è dura, perché l'animale è morto ingazzato. Che si... questa parola la diceva Maria, però, E io pure ce l'avevo detta a mamma che Maria non si mangiava la carne, però mamma mi rispondeva che Maria era viziata, scostumata e che ci aveva tanti soldi. E io ci dicevo a mamma che pure noi ce l'abbiamo i soldi, no? Però mamma mi diceva che Maria ce n'aveva di più, che il papà di Maria c'ha una fabbrica di cemento e lo conoscono tutto il paese perché c'ha una Mercedes grandissima. Ma tanto mamma ha deciso che pure Maria è morta e che pure a lei le dovevano fare il funerale con la targa. Ma poi la polizia principale delle polizie ha bloccato tutto. Ah, Cadici che è ancora viva. Però ormai è quasi un anno che è scomparsa. Secondo me tra non molto lo fanno pure a lei il funerale con la targa. Gaetano dice che a Maria se l'hanno rubati i 'ndranghetisti. I 'ndranghetisti sono i cattivi, Ne parlano sempre tutti di questi 'ndranghetisti. E dici che brutte 'ndranghetisti si devono nascondere insieme e poi appaiono la notte quando io me ne vado a casa. E gli 'ndranghetisti dicono ai brutti che cosa devono appicciare. E dici che se uno vede un 'ndranghetista e quello lo vede che l'ha riconosciuto, poi lo devono sparare. Così dice mamma. E mi dice di non dire mai che non ho visto uno. Mamma. Mamma non ci può ancora credere. E non ci aveva creduto. Anzi, nessuno ci può ancora credere. E nessuno ci aveva creduto. Ma nessuno ci voleva credere, oh! Insomma, nessuno ci voleva credere che avevo visto una macchina nera che fermava un pullman bianco alla strada nazionale e che ci puntavano i pistole. E che poi il pullman bianco seguiva la macchina nera fino a dopo lo svincolo della strada nazionale. Mo io, no, sto pullman bianco non l'avevo mai vista al paese. Quelle del paese sono blu. La macchina nera invece sì, l'avevo già vista, solo che non mi ricordavo di chi era. Comunque il giorno dopo il suo fatto sono tornata da Nello, che era più calmo, si stava bevendo un po' di birra. Non ci ho detto niente del pullman, Ci ho chiesto se mi prestava la bicicletta, che a me ogni tanto me la dava. Solo che gliela dovevo riportare entro le 8, che non funzionavano bene le lucine davanti ed era pericoloso. Con la bicicletta sono andata alla strada nazionale e fino a dopo lo svincolo. E lì ho visto che c'era una stradina piccola piccola che arrivava al burrone e ci sono andata. Alla fine del burrone, nella discesa, c'era una casa piccola piccola e davanti alla casa c'era parcheggiata la macchina nera. Dietro alla casa invece, nella grotta della montagna, c'era il pullman bianco parcheggiato e nascosto con certe frasche. Ma io mi volevo avvicinare di più, ma erano quasi le 8, dovevo portare la bici a Nello. E allora me ne sono andata. No, a mamma non ce l'ho potuto dire che ero scesa al burrone, se no mi dava doppia carne di mucca, che quando mamma si arrabbia cucina il doppio. Però la sera, alla televisione, mi stavo vedendo a Fabrizio Frizzi, che a me mi piace. E a un certo punto l'hanno cacciato per un telegiornale straordinario. stavo per cambiare canale, cambiarsi telegiornali straordinari proprio. Non mi piacciono, no. Ma a un certo punto hanno fatto vedere il pullman bianco, quello che avevo visto io. Il giornalista diceva che quello era il pullman dell'Italia. Ma non dell'Italia alla nazione, dell'Italia squadra di calcio, a nazionale, no! E diceva, tutto preoccupato, che i giocatori erano venuti in Calabria per s'allenare in un campetto che prima era dei 'ndranghetisti. A Rizziconi, no, il paese vicino al mio. E che poi erano scomparsi con tutto il pullman. Io subito ho gridato a mamma di venire alla televisione. Mamma mi è venuta e me l'ha spenta. E allora sono andata a letto. All'otto. Il giorno dopo però sono andata prima dal prete, direttamente da quello giovane, che però era arrabbiatissimo, mi ha detto di andarmene che ci avevo un sacco di telefonate. Nello ancora era chiuso e allora sono andata alla Fontanella Rossa da Gaetano. Ma Gaetano non mi ha dato proprio retta. Fermava tutte le macchine quel giorno ed erano tantissime, facevi controllo a tutti praticamente. Ah, e poi con lui, no? C'erano altri 7-8 carabinieri nuovi che non avevo mai visto prima, con certe mitragliette grandissime e gli stivali fino a qua, quelli da fiume. E vabbè, insomma, comunque Gaetano mi ha cacciato, che dice che era pericoloso. E allora sono andato dal giornalaio e ho visto che sui giornali c'era la fotocopia del pullman bianco di quello che avevo visto io. E mo tutti parlavano del suo pullman bianco con l'Italia rapita. Dicevano che l'avevano uccisa quei giocatori e che da Roma stavano arrivando altri carabinieri e pure la polizia principale delle polizie. Io lo dicevo a tutti che lo sapevo dov'era il pullman, ma quelle niente, o ridevano o non mi davano retta. Intanto però si era fatto l'orario che Nella apriva al locale e allora sono andata da Nello. Ma Nella al locale non mi stava proprio a sentire. C'era pieno pieno di gente quel giorno e stavano tutti a si guardare la televisione. Dicevano che tra pochi mesi c'erano i mondiali di calcio e che quei giocatori valevano tantissimi soldi. Io lo dicevo che erano nella grotta, ma quelle niente, parlavano tutti insieme. Milioni di qua, milioni di là, soldi, affari, politici, Milan, Juventus. Era invisibile, oh. È brutto parlare senza essere ascoltata. Ero arrabbiata. Capivo che io capisco che ero la scema e che nessuno mi credeva. E pensavo a Maria, che se lo diceva lei dov'era il pullman, ci andavano subito a vedere e li trovavano a quei giocatori. È brutto essere invisibile se ti vedi in mezzo agli altri che non ti vedono. È brutto saperlo. E io lo sapevo. Sapevo che ero la scema e che tutti mi ridevano in faccia solo perché lo sapevano che ero scema. Ma io scema non mi ci sentivo neanche un po'. Invisibile sì. E allora vaffanculo, come avrebbe detto Maria. Me ne sono tornata a casa e non l'ho detto più a nessuno. Mi sono messa davanti alla televisione. Oh, Rai 1. C'era il mio paese. Rai 2, il paese. Al 3, il paese. Al 4, la statua di Gigi Garibaldi del paese piena di gente. Al 5, il paese. Al 6... la pubblicità. Però sono sicura che prima c'era il mio paese. E mi sentivo quello che dicevano, no? Rapiti dall''ndrangheta, l'Italia è sparita in Calabria. E ne parlavano sempre tutti i canali. Facevano interviste, pezzi di partite, dicevano i nomi dei giocatori. E nessuno sapeva che erano là, solo io. Pure il presidente Giorgio Napolitano faceva un appello a Reti Unite ai rapitori. Oh, il fesso, che mo secondo te i rapitori si guardano la televisione, preside? Comunque, 7 giorni dopo, dopo mangiato, mi stavo guardando a Bruno Vespa, che a Fabrizio Frizzi l'avevano cacciato proprio. E Bruno Vespa faceva un servizio sul mio paese. Diceva che era il paese dell'indrangheta, che c'erano i bossi, che la gente ci aveva paura di parlare e voleva solo apparire nella televisione. Chi sarà vero? Poi a un certo punto al servizio Bruno Vespa ha mandato la foto di Maria. E Bruno Vespa diceva che pure Maria era scomparsa, che pure a lei se l'erano rubati gli indranghetisti, che avevano chiesto un sacco di soldi alla famiglia, ma che per errore la ragazza era morta. E mi sono messa a piangere. Lo sapevo, però mi dispiaceva. Mo l'aveva detto la televisione e quindi era vero. Ma che vero, è vero, io ormai non ci credevo più a quello che diceva la televisione. Erano 7 giorni che dicevano le cose più assurde. E allora ho pensato che forse Maria era là, nella grotta, pure lei. La volevo liberare, a lei. Dei giocatori non mi interessava più niente. Però poi ho pensato, se libera Maria, devo liberare pure a tutti quei giocatori, no? Se no per brutto. E allora il pomeriggio ci sono ritornata, a piedi, e ho visto che dietro alla grotta c'era un capannone, completamente coperto di terra, con certe finestrelle piccole piccole. Ho spiato e ho visto che i giocatori erano lì dentro. C'erano pure 3 uomini incappucciati, loro erano indranghetisti. Maria no, non c'era. Però mi era ritornata la voglia di dirlo di nuovo a tutti, no? E siccome al paese non mi stava mai a sentire nessuno, senti che ho pensato, sono andata direttamente dai giornalisti. Sì, ma quelli si facevano truccare, accendevano delle luci bianche e parlavano nel microfono. E ridevano. Non soffriva nessuno, era una festa. E allora vaffanculo di nuovo. Me ne sono tornata a casa e ci ho fatto passare altre 2 settimane. 2? Oh, il paese non era mai stato così pieno di gente. C'era un traffico assurdo fino alla notte e le macchine e i camion che arrivavano al paese ci passavano da quella stradina. Un paio di volte avevano fatto pure la telecamera dalla Fontanella Rossa e si vedeva quella montagnella di terra che copriva il capannone. Ma forse non se ne accorgevano. Gli elicotteri facevano avanti e indietro e i cani tedeschi abbaiavano tutta la notte. Ah, senti che ci facevano fare ai cani. Ci facevano odorare le magliette della squadra di pallone e quelle abbaiavano ancora di più. Forse perché, ho pensato io, i cani erano di un'altra squadra, no? O comunque i giornalisti si inventavano proprio di tutto. Dicevano che ormai l'Italia era morta e che a Roma stavano organizzando i funerali. Funerali senza corpo, ne sapevo qualcosa. Ah, un papa! Persino il papa dalla finestra di Roma aveva detto che era un gesto vilo e peccatoro. Se, mo ci mancava che veniva pure il papa al paese ed eravamo al completo. Ero stanca, sapevo tutto. La scema, che ne sapeva più di tutti quanti. Mi divertivo, ridevo. Loro erano invisibili, tutti invisibili. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché sono fiero, sono un italiano, italiano vero. Mono? Da un paio di giorni davanti a casa mia si c'era parcheggiato il camioncino della Rai. Rai 3. Però li vedevo che facevano i collegamenti, no? A mattina, a mezzogiorno, il pomeriggio, la sera e pure a notte. Sempre la stessa inquadratura, eh? Sempre con la telecamera verso l'aspromonte, eh? Ma che fantasia. Era bello però, perché se mi affacciavo vedevo il giornalista che parlava al microfono e se entravo lo vedevo pure alla televisione. E loro mi hanno dato l'idea. Ho pensato che mi potevo prendere la telecamera e ce lo dicevo direttamente io al telegiornale dove erano quei giocatori. Però poi ho pensato che io quella telecamera non la sapevo neanche appicciare. E allora ho pensato un'altra idea. Senti che ho pensato. Siccome tutti quanti dicevano che era strano che ancora nessuno ci aveva chiesto il riscatto, e siccome una volta io me l'ho visto un film che c'era un signore che si rubava ad un bambino e per ci chiedere il riscatto ci aveva scritto una lettera coi ritagli di giornale, ho fatto così. Senti che ci ho scritto. Se volete di nuovo l'Italia dovete portare i soldi alla Fontanella Rossa vicino alla curva della strada nazionale. 100.000 euro, oggi alle 3, firmato Indranghetisti. E la sono andata ad attaccare alla telecamera di Rai 3. Oh, alle 3 erano tutti davanti alla fontana. Polizia, carabinieri, preti, politici, flash, telecamere, elicotteri, cani tedeschi, tutto. Quando sono uscita da dietro il muro della Fontanella Rossa, sono scoppiati tutti i flash e tutti commentavano tra di loro. Io ho urlato con tutta la voce che ci avevo che l'Italia era nel burrone. C'è stato un silenzio di tomba. Bruno Vespa mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha fatto paura. E poi sono scoppiate tutte a ridere. Non mi avevano creduta. E allora la scema se n'è tornata a casa. Ho acceso la televisione. E Rai 3, proprio loro, stavano facendo una ripresa dal burrone. Ma avevano creduta a mia. E li avevano trovati a quei giocatori. Annello l'hanno arrestato. Era un indranghetista. Non ci potevo credere. Eppure il giornalaio. Era sua la macchina nera. Finalmente li avevo visti in faccia gli indranghetisti. Pure se li vedevo tutti i giorni. Fedea Radio a Reggio Calabria, FM 100.6 e 100.3. Fedea Radio. Buonasera, Marco Sommi per le notizie flash di Radio Febea. Apriamo con la cronaca. Oggi il Presidente della Repubblica arriverà in Calabria per consegnare la medaglia d'onore alla giovane Carla Libonati, la ragazza che 5 mesi fa aveva collaborato per ritrovare la nostra nazionale di calcio rapita in Calabria. Ricorderete che la ragazza è la figlia del noto boss Antonio Libonati, latitante da oltre 2 anni e ricercato in tutto il... Proprio perché papà era un indranghetista, non mi avevano premiato subito dopo che avevano trovato a quei giocatori. C'erano stati i mondiali di calcio e l'Italia era stata eliminata al primo turno. I giornalisti se l'erano presi con la Calabria. Tutti ce l'avevano con la Calabria. Pure a Gigarbardi si erano portati via. No. Alla televisione mo ormai non ne parlano più, solo alla radio, ogni tanto, come oggi, che viene il presidente Giorgio Napoletano a mi portare una medaglietta di onore. Non mi ci hanno fatto andare a Roma, che dice che era pericoloso. Io le volevo vedere, quelle fontane. Mamma mo però mi iscrivo alla palestra e al paese tutti mi salutano. Qui tutto è cambiato. Però è stato brutto sapere l'altra sera da Bruno Vespa che è stato papà a si rubare a Maria.